Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il nostro caro amico Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora, Gianluca, so che ci devi parlare di vacanze rovinate, in questo caso anche una vacanza da incubo, ma poi generalizzeremo probabilmente, ma ho visto che è stata rovinata una vacanza in un posto meraviglioso che è Fontane Bianche, provincia di Siracusa. Ci sono stato ormai, ahimè, credo 17 anni fa, però un bel ricordo. Sì, devo dire che anch'io ho un gran bel ricordo comunque della Sicilia in generale, anche di quelle zone. Sicuramente meno bello c'era appunto questo gruppo di persone, di veneziani, che appunto avevano prenotato questa vacanza a Fontane Bianche, che è una bella località appunto in provincia di Siracusa. E ancora, stiamo parlando ancora dell'agosto scorso, avevano appunto prenotato, erano un gruppo di 8 persone, avevano prenotato in un resort appunto in questa zona, questa splendida zona della Sicilia, e quindi sono partiti esattamente il 19 agosto del 2016, dovevano farsi appunto una decina di giorni in questo posto meraviglioso, e invece la vacanza si è rivelata, almeno per quanto riguarda i primi giorni a Fontane Bianche, un vero e proprio flop per colpa tutta addebitabile al servizio offerto appunto da questo resort. E secondo quanto è stato raccontato, ma poi è stato confermato anche, comunque raccontato dal gruppo che si è rivolto appunto all'Adico, la vacanza era già cominciata male quando le persone sono arrivate in questo resort, perché c'è chi si è trovato in una stanza senza aria condizionata, tutti hanno dovuto subire il rumore provocato appunto da un generatore di elettricità funzionante quasi tutto il giorno. Hanno anche un po' contestato alcuni di servizi di altro tipo legati poi alla struttura stessa, però soprattutto, Francesco, il 23 agosto la situazione è completamente precipitata, nel vero senso della parola, perché verso l'una, all'ora di pranzo, ha cominciato a piovere, da quello che ci hanno riferito una pioggia non particolarmente violenta, però a questo punto la pioggia, l'acqua è entrata ovunque, è entrata in tutti i piani della struttura, in tutti gli ambienti, in cucina, in sala da pranzo, nelle camere d'ingresso, ovunque, negli ascensori perfino, quindi la struttura è stata completamente allagata, è divenuta pressoché inagibile. Al che questo gruppo di persone, dopo aver già cominciato male le sue ferie, ha dovuto subire un trasferimento, è stato trasferito a Tindari, a circa 3 ore di distanza da Fontane Bianche. Qui diciamo che la vacanza sicuramente è migliorata, si sono trovati meglio, anche se comunque hanno dovuto ripagare delle cose che hanno già pagato precedentemente. In ogni caso è terminata, diciamo, in modo positivo, però alla fine, quando sono tornati a casa, non erano per nulla soddisfatti, perché comunque il concetto è quello che quando si va in vacanza si vuole tornare sicuramente più rilassati di prima, e invece diciamo che sono tornati praticamente più stressati di prima. Sto sottolineando questo passaggio perché è un passaggio fondamentale, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, però in questo caso abbiamo anche un ottimo riscontro, nel senso che siamo andati a chiedere al tour operator che aveva organizzato la vacanza un risarcimento, non tanto per le spese affrontate, perché comunque loro alla fine la vacanza l'hanno fatta, ma proprio per il danno morale. Questa è una cosa molto particolare, è il danno morale per vacanza rovinata, e insomma le persone che vanno in vacanza devono sapere che esiste anche questa possibilità di risarcimento, che quindi non è legata solo al fatto di aver perso dei soldi perché per vari motivi appunto legati all'organizzazione. Qua stiamo parlando proprio di un'aspettativa non mantenuta, cioè l'aspettativa quella di farsi appunto dei giorni di relax che in realtà si sono trasformati in stress. Una perdita del buon umore, diciamo così. Bravissimo, cioè, è chiaro che è un danno che esiste, però chiaramente non è mai facile da quantificare. In questo caso è stato riconosciuto al gruppo un risarcimento di circa 200 euro a testa, che è una cifra che noi riteniamo molto soddisfacente, e anche le persone, i soci che sono rivolte a noi, l'hanno ritenuta tale. Però ecco, la cosa particolare che voglio spiegare appunto ai vacanzieri, adesso fra un po' si affacceranno le vacanze estive, insomma fra qualche mese, è quella di ricordarsi sempre che nel caso di vacanza rovinata si può anche andare a contestare un risarcimento per un danno morale. In questo caso è stato ottenuto dopo l'intervento della nostra associazione. Chiaramente è un danno che bisogna cercare di farsi riconoscere in via di mediazione, in via transattiva, quindi come abbiamo fatto in questo caso, non evitare insomma anche di andare a finire in tribunale. Comunque è un danno che viene riconosciuto e che è stato anche diciamo riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea, e che appunto ha stabilito tra i danni risarcibili a favore del turista, nel caso stiamo parlando di pacchetti turistici, ci sono proprio quelli legati o derivanti dalla frustrazione per una vacanza andata male. Mi sembra una bella cosa e ricordo sempre che se dobbiamo dimostrare che insomma c'è qualcosa che non va nella nostra vacanza, la macchinetta fotografica, il cellulare che abbiamo a disposizione è fondamentale. Sì, esatto, questo lo diciamo da sempre, ti ringrazio per ricordarlo perché quando ci sono dei problemi di qualsiasi natura, nella vacanza è fondamentale, ci sono dei problemi, anche per esempio ci è capitato molto spesso di persone che sono rivolte a noi per essere andati in luoghi di villeggiatura dove ad esempio all'interno delle strutture c'erano insetti o comunque c'era la muffa o comunque c'era sporcizia. Chiaramente con una bella macchina fotografica ci si può aiutare nel caso in cui si voglia andare appunto poi a chiedere un risarcimento. E quindi ricordiamoci che al di là di tutte le tutele che in realtà esistono per le persone che vanno in vacanza, da quelle tutte le tutele legate al volo, a quelle legate al volo, se uno va in aereo ovviamente, a quelle legate appunto ai servizi di una struttura, a queste tutele si può anche passare appunto alla richiesta di un risarcimento quando riteniamo che alla fin fine la nostra vacanza non sia stata per niente rigenerante e anzi abbia messo a dura prova le nostre energie psicofisiche. Naturalmente in questo caso è stato ampiamente dimostrato che la vacanza è stato un flop. E quindi ricordiamo che anche per questo esiste l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate anche i numeri di telefono. Grazie a Gianluca Codognato, a tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.